Cari fratelli e sorelle, vi propongo oggi alcuni aspetti della dottrina di San Gregorio Nisseno, del quale abbiamo già parlato mercoledì scorso e chiedo scusa la mia voce un po' danneggiata, farò il mio meglio. Anzitutto, grazie. Gregorio di Nissa manifesta una concezione molto elevata dell'uomo e della sua dignità. Infine, il fine dell'uomo, dice il Santo Vescovo, è quello di rendersi simile a Dio. E questo fine lo raggiunge anzitutto attraverso l'amore, la conoscenza e la pratica delle virtù, raggi luminosi che discendono dalla natura divina. In un movimento perpetuo di adesione al bene, come il corridore è proteso in avanti. Gregorio usa a questo riguardo un'efficace immagine presente già nella lettera di Paolo ai Filippesi, dove nel greco si dice epectenomenos, cioè protendendum. Io vedo sempre esteso, protendendum verso il più grande, verso la verità e l'amore. Questa icastica espressione indica una realtà profonda. La perfezione che vogliamo trovare, il Vangelo ci ha parlato, non è una cosa una volta fatta per sempre, ma perfezione è questo rimanere in cammino, è una continua apertura ad andare avanti, perché non si raggiunge mai la piena somiglianza con Dio, siamo sempre in cammino. La storia di anima, così ci Dio, è quella di un amore ogni volta colmato e allo stesso tempo aperto su nuovi orizzonti, perché Dio dilata continuamente le possibilità dell'anima per renderla capace di bene sempre maggiori. Dio stesso, che ha deposto in noi i germi del bene e dal quale parte ogni iniziativa di santità, modella il blocco, dice, limando e pulendo il nostro spirito, forma in noi il Cristo. Gregorio si preoccupa di precisare, non è infatti opera nostra e non è neppure la riuscita di una potenza umana di venire simile alla divinità, ma è il risultato della munificenza di Dio che fin dalla sua prima origine ha fatto grazia della somiglianza con Lui alla nostra natura. Per l'anima dunque si tratta, e questo è importante, non di conoscere qualcosa di Dio, ma di avere Dio in sé. E quando abbiamo Dio in noi? Quando l'uomo ama Dio, per quella reciprocità che è proprio dell'amore, vuole ciò che Dio stesso vuole, e quindi coopera con Dio a modellare in sé la divina immagine. Per ascendere verso Dio, l'uomo deve purificarsi. In questo cammino di ascesa spirituale, Cristo è il modello e il maestro che ci fa vedere la bella immagine di Dio. Ciascuno di noi, guardando a Lui, si ritrova ad essere il pittore della propria vita, che ha la volontà come esecutrice del lavoro e le virtù come colori di cui servirsi. Dunque, se l'uomo è ritenuto degno del nome di Cristo, essendo cristiano, come deve comportarsi? Gregorio risponde così: deve esaminare sempre nel suo intimo i propri pensieri, le proprie parole, le proprie azioni, per vedere se esse sono rivolte a Cristo o se si allontanano da Lui. E questo è un punto importante, il valore che dà alla parola cristiano. Cristiano è uno che porta il nome di Cristo e quindi dovrebbe assimilarsi a Cristo. Nel nome cristiano portiamo una grande responsabilità. Cristo, ricorda Gregorio, è presente anche nei poveri. per cui essi non devono mai essere oltraggiati. Cito: non disprezzare costoro, non giacciono costoro che giacciono stesi, come se per questo non valessero niente. Considera chi sono e scoprirai quale è la loro dignità. Essi ci rappresentano la persona del Salvatore. Ed è così, perché il Signore nella sua bontà prestò loro la sua stessa persona affinché per mezzo di essa si muovano a compassione coloro che sono duri di cuore e nemici dei poveri. E questo è importante. Gregorio, abbiamo detto, parla della salita. Salita a Dio per la preghiera, per la purezza del cuore, ma salita a Dio proprio anche per l'amore al prossimo. Questa è la vera salita, perché l'amore è la scala che guida verso Dio. Con molta chiarezza, Gregorio ricorda che tutti dipendiamo da Dio e perciò esclama: non pensate che tutto sia vostro. Ci deve essere anche una parte per i poveri, gli amici di Dio. La verità infatti è che tutto viene da Dio, Padre universale, e che noi siamo tutti fratelli e apparteniamo a una medesima stirpe. Concludiamo questa nostra catechesi sui tre grandi padri cappadoci, richiamando ancora quell'aspetto importante della dottrina spirituale di Gregorio Nisseno, che è la preghiera. Per progredire nel cammino verso la perfezione ed accogliere in sé Dio, portare in sé lo Spirito di Dio, l'amore di Dio, l'uomo deve rivolgersi con fiducia a Dio nella preghiera. E il cristiano prega ispirandosi sempre alla preghiera del Signore. Cito: se dunque vogliamo pregare che scenda su di noi il regno di Dio, questo gli chiediamo con la potenza della parola, che io sia allontanato dalla corruzione, che sia liberato dalla morte, che sia sciolto dalle catene dell'errore. Non regni mai la morte su di me, non abbia mai potere su di noi la tirannia del male, non domini su di me l'avversario, né mi faccia prigioniero attraverso il peccato, ma venga su di me il regno tuo, affinché si allontanino da me, o meglio ancora, si annullino le passioni che ora mi dominano e signoreggiano. Terminata la sua vita terrestre, il cristiano potrà così rivolgersi con serenità a Dio. In questo momento San Gregorio pensa alla morte della sua sorella Macrina e scrive che Macrina pregava nel momento della morte così: Dio, tu che hai sulla terra il potere di rimettere i peccati, perdonami, così che il mio spirito venga accolto nelle tue mani come incenso di fronte a te. E così rimane questa dottrina di San Gregorio: non solo parlare di Dio, ma portare Dio in sé, e lo facciamo con lo spirito della preghiera e con lo spirito dell'amore per tutti i nostri fratelli. Grazie.